versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori, benvenuti qua in diretta dal studio Radio 24 di Milano, 16.32 e 48 secondi. Beh, this is the end oggi perché è la fine dell'anno, è questo martedì 31 dicembre, è un martedì 31 dicembre che è cominciato in una maniera per me doppiamente surreale, ve lo dico perché da una parte un amico che per mestiere, lavorando dietro la produzione legislativa pubblica, stamattina mi segnala una cosa che vi voglio consegnare come piccola chicca di fine anno e inizio anno, e mi dice: ma tu ti rendi conto che il decreto proroghe, quello a cui si è arrivati dopo che Quirinale aveva smontato il Salva Roma, beh, il decreto proroghe che è pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre e vigente da oggi 31 dicembre, modifica norme della legge di stabilità che oggi 31 dicembre non è ancora entrata in vigore, perché entra in vigore domani. Allora vi rendete conto delle comiche di Stato in cui ci sono dei decreti legge che anticipano modifiche a norme che non sono ancora entrate in vigore? Ve lo dico perché è stato una maniera surreale di rendermi conto di come l'autoavvitamento delle istituzioni italiane arriva a punti che oramai non si riesce più neanche a descrivere. Nessun giornale, nessun collega lo aveva notato. In effetti è una minuzia, ma è una minuzia che fotografa la paradossalità della condizione in cui viviamo. E l'altra cosa, per me che sono stato molti decenni a Roma, è stata l'amarezza della scomparsa di per me grande musicista, ma sono convinto che chiunque lo abbia sentito non può che essere d'accordo, Roberto Ciotti, grande chitarrista, jazzman, bluesman, che andavamo a sentire nel locale del padre di Giorgio Todrani a Trastevere un bel po' di decenni fa. Mai avrei immaginato che Roberto Ciotti scomparisse, essendo così giovane, proprio oggi. Allora, la trasmissione dell'ultimo dell'anno è un modo, naturalmente, per riflettere sull'anno che abbiamo alle nostre spalle, non tanto sulle previsioni dell'anno che verrà, perché a cominciare da quelle degli economisti, la mia opinione personalissima è per quello che vale, gli economisti dovrebbero dire le previsioni sono viziate da un fatto che l'economia non, sottolineo, non è una scienza, e quello che avverrà dipenderà da quello che milioni di voi farete o non farete l'anno prossimo, perché questa è la differenza tra una disciplina che si occupa di dedurre delle costanti o approssimazioni di costante dalla scelta di milioni di persone, come l'economia, ha le leggi invece della scienza, come la fisica. Pensiamo a un punto su la politica o meno di fine anno, e allora abbiamo invitato per fare un bilancio di quest'anno e per sentire come la pensa lui quello che secondo me è uno dei più acuti da parecchi anni osservatori e disincantati della vita italiana, per Luigi Battista del Corriere della Sera. Buongiorno e grazie di essere con noi, per Luigi. Buongiorno e grazie per la presentazione, naturalmente. Ma che, senti, a me ha molto incuriosito che ieri sul Corriere della Sera tu hai fatto un articolo che non so a quanti, se non a quelli un po' âgé come me, non come te, ma insomma era chiaro fin dall'inizio, perché hai scritto un meraviglioso articolo sull'Italia di oggi, cioè sui limiti di una borghesia che non regge più, non regge nei comportamenti quotidiani, non regge nell'adesione spontanea alle leggi, non regge nei comportamenti pubblici e privati. Però il piccolo particolare è che lo hai fatto ispirandoti a un film di diversi decenni fa di Pietrangeli con Stefania Sandrelli. Chi non capiva dalla prima riga era convinto che tu stessi parlando dell'Italia di oggi. Perché? Quello che vuoi dire è che la fine della borghesia italiana data decenni, e questa è un po' la sintesi del problema italiano? No, non è esattamente questo, no, almeno non era questa l'intenzione. Io ho fatto una parodia. La parodia del discorso che ci incatena e ci assilla da almeno 20 anni, il famoso ventennio berlusconiano, per cui diciamo è la fotografia di una incapacità di analizzare, se non di indignarsi, di ripetere sempre lo stesso discorso, di non capire più niente, insomma, di essere abbacinati dalla figura. Ci siamo divisi per 20 anni tra berlusconiani e anti-berlusconiani, abbiamo smesso di pensare. E allora ho preso un film del 1965, io la conoscevo bene, in cui una meravigliosa Stefania di Antonio Pietrangeli, in cui una meravigliosa Stefania Sandrelli viene a Roma praticamente per fare la velina, quella che oggi verrebbe chiamata la velina, la letterina, per avere un posto al sole, per cercare di ottenere un po' di successo, visto che lei è carina, e incontra una fauna orrenda di figure, di magnaccia, di politici corrotti, eccetera, eccetera. Allora io ho fatto come una recensione di questo film, ripetendo tutti i luoghi comuni di questo ventennio, diciamo così, e dicendo non è più l'Italia di un tempo, che bello che abbiamo perso i valori, che abbiamo perduto i valori, come era bello invece negli anni 60 e così via. E alla fine ho terminato dicendo questa cosa in realtà è un film del 1965, quindi basta. Cioè, il mio augurio per l'anno nuovo, se posso dire, è quello di ricominciare a pensare. Abbiamo bisogno di ricominciare a pensare, sennò questo paese davvero è fottuto, cioè non sappiamo più che cosa è accaduto, cioè non è più possibile dividerci tra chi pensa che tutti questi anni siano il prodotto di un mostro e tra chi invece non fa altro che intonare meno male che Silvio, cioè non è veramente più possibile. Quindi spero che ci sia una svolta culturale. Io naturalmente un pezzetto, un giornale, non è nulla di più di questo, però insomma, per dire che forse bisognerebbe cominciare a ripulire gli attrezzi della nostra mente. Allora, facciamo una sintesi del 2013. Il 2013 ha dato proprio su questo filone che ha introdotto quattro cose. Cioè, la botta in testa a Berlusconi, quella giudiziaria, politica e così via. Dall'altra parte, la sconfitta netta di come il PD aveva visto le elezioni, dopo elezioni, l'elezione al Quirinale, eccetera, eccetera. Terza cosa, insomma, molta polvere sull'esperienza dei tecnici. E quarta cosa, Grillo. Ecco. Allora, su queste quattro cose, quale resta e quale invece se ne va, secondo te? Io direi una cosa. Tutti noi, nessuno escluso, un anno fa, eravamo tutti, diciamo così, chi impegnato nelle nuove liste, chi faceva dei giornali, no? Insomma, proviamo a immaginare che cosa pensavamo tutti un anno fa. Tutti noi eravamo sicuri di una cosa. Che le elezioni le avrebbe vinte il Partito Democratico, che Bersani sarebbe stato il Presidente del Consiglio, che Grillo avrebbe avuto una buona affermazione, ma sarebbe stato comunque una buona affermazione di un partito d'opposizione, che probabilmente al Senato, se non ci fossero stati numeri sufficienti, ci sarebbe stato il governo di Bersani appoggiato da Monti. Punto. Che Berlusconi era finito. Questo era quello che tutti noi pensavamo il 31 dicembre del 2012. Dimmi se non è esattamente. No, così. Questa era la, diciamo, sicuramente la versione maggioritaria di quello che. Beh, insomma, sì, maggioritaria, quando dico tutti, il mainstream, poi magari c'è qualche irregolare che l'ha pensato diversamente. E comunque tutta la campagna elettorale del PD è stata intorno al punto, ma Monti ci sostiene oppure no? Tutti noi pensavamo alle cose così. Adesso tutto questo non è accaduto, e da quel momento è scoppiata l'ira di Dio. E ci siamo immaginati altre cose, ci siamo immaginati per esempio che Berlusconi non fosse finito, no? È chiaro che non è finito, nel momento in cui non è vero quella la principale condizione, cioè che le elezioni avrebbe vinto il Partito Democratico, si è pensato che Berlusconi fosse ancora in pista. Berlusconi aveva perso il 16% dei voti, cioè una cifra colossale, credo che senza precedenti nella storia delle elezioni italiane. Rispetto a 5 anni prima aveva perso il 16% dei voti, cioè percentuali da PASOK greco, per capirci, cioè partito che andava così. Nonostante questo c'è stato il grande pareggio, l'ingovernabilità, eccetera, eccetera. Poi c'è stato il crack istituzionale dovuto al fatto che il partito che aveva perduto, cioè il Partito Democratico, non ha saputo elaborare questa semplice analisi, cioè abbiamo perduto le elezioni, ed è esploso, letteralmente esploso, e non è riuscito nemmeno a fare eleggere un Presidente della Repubblica. Il default istituzionale unito a default economico, eccetera, eccetera, eccetera, ha prodotto una situazione di totale anomalia, ma obbligata, cioè alla reintronizzazione di Giorgio Napolitano, che ha fatto un discorso di reinsediamento in cui ha praticamente preso a ceffone i partiti che in quel momento lo stavano applaudendo e che lo hanno votato, il governo delle larghe intese e la promessa che, visto che eravamo sull'orlo del precipizio istituzionale, si sarebbero fatte le riforme costituzionali, non la riforma elettorale, come si dicono le storie stupidaggini della riforma elettorale, come se il problema fosse la riforma elettorale, ma le riforme costituzionali che rendevano possibile a questo paese, diciamo così, un governo che durasse quello che doveva durare, ma per fare alcune cose fondamentali, ripeto, non la riforma elettorale, ma le riforme costituzionali, cioè il Senato abolito, comunque ridimensionato, la riduzione del numero dei parlamentari, la forma di governo, premierato forte, semi per repubblica presidenziale. Questi erano i problemi, non erano i problemi se c'era o meno lo scorporo, l'incorporo di una legge elettorale, questo è il punto vero. E il grande fallimento è dovuto al fatto che di fronte a questo default istituzionale, dopo alcuni mesi, si è capito che queste riforme necessarie, obbligatorie e alcuni provvedimenti necessari e obbligatori, nessuno aveva la forza di prendersi. E questo, diciamo così, è l'amara, è quello che è accaduto, la parabola di soli 12 mesi. E adesso naturalmente, diciamo, si riparte con Matteo Renzi che vince nel Partito Democratico, poi c'è tutto un movimento dentro il centrodestra che non si capisce dove porterà, c'è l'arresto di Berlusconi, insomma l'arresto che sarà nei prossimissimi mesi, cioè noi facciamo finta che quel problema non esista più. Facciamo finta di non saperlo, ma tu dici in realtà è ragionevole attendersi che avvenga, visto quello che negli anni... No, l'arresto, scusami, l'arresto ci sarà. Ci sarà. Cioè, esatto. non è, ma per esecuzione della condanna, esatto. Nel senso che saranno domiciliari o saranno... No, io credevo che per una richiesta No, sto dicendo l'esecuzione di una condanna, nel senso che tra tre mesi Berlusconi ogni mattina alle 11, il bene che gli va, dovrà uscire di casa, andare in qualche posto, fare i servizi sociali alternativi per un paio d'ore al giorno e poi tornare a casa, bene che gli va. Questo è sicuro, non è che una... diciamo così, dentro questa situazione, allora quest'anno dice che previsione possiamo fare? Non lo so, se non... Aspetta, adesso ti interrompo su questo perché poi ricominciamo da quello che ti attende tra poche ore, il famoso messaggio di Napolitano con la politica divisa, ascoltarlo sì, ascoltarlo no, bla bla bla. Intanto però diamo la parola a un ascoltatore, c'è Giacomo che ci chiama dalla provincia di Brescia. Prego Giacomo. Pronto? Buonasera. Buon pomeriggio. Oscar. Eccoci. Allora, io volevo solo dire due cose. Lungi da me difendere i politici perché ci hanno messo del loro nel disastro. Uno per tutti, io ritengo Berlusconi. Però, al di là di questo, non credo che la colpa di tutto quello che succede sia proprio dei politici, ma ci sono i grossi dirigenti dello Stato che scrivono le leggi in merito a quello che lei diceva prima. Ah, sono d'accordo, altro che. In merito a quello. La seconda cosa, gli industriali. Noi in 4 anni abbiamo venduto 680 marchi italiani. I soldi che hanno incassato questi signori dove li hanno portati? Primo. E poi tornando anche a una piccola cosa del sua, anche lei ha avuto il suo armadio scheletrone. Ma su questo Giacomo la ringrazio perché nel bilancio io vi devo a voi ascoltatori senza dubbio replicare che pago giustamente per la mia debolezza. In piccolo ho dimostrato che volendo si può fare qualcosa, ma in grande, come ovvio, deluso molto e giustamente pago la mia debolezza caratteriale e l'errore che ho compiuto, quindi grazie per ricordarlo perché è necessario a fine anno che lo faccia, come lo farò sempre. Quanto agli industriali, io non generalizzo, è ovvio che questo è un paese che ha, secondo me Giacomo, ancora delle regole troppo estese di mercato asfittico, cioè casi come quello dei Ligresti in cui tutti sono buoni a picchiare dopo quando arrivano le procure, ma per anni era sotto gli occhi di tutti ed eravamo in pochi a criticare, no? I patti di sindacato alla cui ombra avveniva quella mala gestio. Quelli sono sotto gli occhi di tutti. Per me alcune vicende anche recenti, la rivalutazione delle quote di Banca d'Italia in cui il sistema bancario e la politica, il governo sono allineati, in altri tempi vede lo schiaffo che è venuto dal parere della BCE ieri a decreto neanche approvato dal Parlamento ma a statuto modificato del Banca Italia, in altri tempi sarebbe successo un caos istituzionale pazzesco, la politica sarebbe andata al Quirinale, invece ora avviene. Vogliamo parlare ancora della vicenda Montepaschi che sta avvenendo? difendendo e con cui la fondazione difende un suo vecchio ruolo improprio con tutti gli errori che ha commesso, eppure i media guardano perché, come è noto, le grandi banche hanno in mano il debito dei grandi gruppi editoriali. Su questo io non posso che darle ragione, però non è una condanna generalizzata, come io non condanno in maniera generalizzata tutti i politici. Il problema è chi ha la responsabilità. Quanto a battermi il petto io, si figuri Giacomo se non lo faccio, c'ho tutta la vita intera, ogni giorno, per dire a me stesso che ho sbagliato strade. E poi torniamo con Pierluigi Battista. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornati in diretta, 16:49, 2 secondi dagli studi di Milano di Radio 24, e con noi per Luigi Battista per interrogarsi queste ultime ore dell'anno su cosa ci lascia la politica italiana e cosa ci fa pensare. Pensiamo al discorso del Capo dello Stato che ci sarà tra qualche ora. Pierluigi Battista, montata la polemica su un napolitano invadente rispetto alle prerogative della Costituzione, l'ultimo libro di Marco Travaglio ne fa un ritratto come di un arrogante sostituto di qualunque tipo di rappresentanza politica. Quanto c'è di eccessivo in tutto questo, secondo te? Sicuramente Napolitano ha un ruolo, quello che si dice, ha giocato un ruolo di supplenza rispetto al fatto, ripeto, noi dobbiamo vedere alcune scene di quest'anno che sta finendo. E la scena di Napolitano che viene rivotato, malgrado lui, che tutto questo, diciamo, prescinde dal fatto che Napolitano non voleva ritornare al Quirinale, lo aveva detto per ragioni personali, per ragioni di anzianità, per ragioni politiche, per ragioni di decoro, non voleva tornare al Quirinale. Quindi tutti, anche questi che raccontano che era già tutto preparato, non era niente di tutto questo. Napolitano non voleva, in una situazione di collasso chiedono a Napolitano il favore di salvare le istituzioni, e lui lega, diciamo, questa sua, diciamo, anomala rielezione a una condizione, la condizione che i partiti che lo hanno votato si mettano insieme per fare un governo che sappia fare alcune cose. Questo è il punto, fino al punto di dire di dimettersi nel caso in cui, questo fa parte delle sue prerogative istituzionali, cioè io non credo che ci sia. Qual è lo strappo costituzionale che sarebbe stato fatto in tutta questa, cioè per cui addirittura si chiede l'impeachment? Uno può criticare naturalmente l'azione politica, l'azione di Napolitano, per carità, ma quale sarebbe lo strappo costituzionale? Lui ha semplicemente detto che questo, se non ci, in mancanza di quell'equilibrio, lui si dimetterà, cosa che secondo me farà. Io vorrei dire che questa non è, visto che è facile, cioè ti aspetti che sia esattamente coerente a quello che ha detto al Parlamento? Sono convinto che nel giorno in cui non ci saranno più le condizioni del governo Letta, sono convinto che al 95% che Napolitano si dimetterà e che l'Italia entrerà nel grande caos politico istituzionale vero, cioè nel grande politica. Se questo non dovesse accadere è soltanto, diciamo, perché Napolitano decide, diciamo così, all'ultimo di salvaguardare la sua prerogativa di custode, diciamo, di queste istituzioni. Però questo potrebbe accadere, è uno scenario assolutamente realistico che possa accadere, nel senso che a quel punto si tratterà di votare un nuovo Presidente della Repubblica, si capirà la scelta suicida della nuova Forza Italia, che si ritroverà con un Presidente della Repubblica radicalmente spostato a sinistra, e con questo attuale Parlamento, intendo dire, e poi sarà quel che, cioè, sarà. Tu dici con questo Parlamento un presidente alla Rodotà, tanto per dirne uno. Ma certo, cioè l'azione, ripeto, suicida di Forza Italia, che per decidere di dare un segnale puramente simbolico di vicinanza al proprio leader, diciamo puramente simbolico perché non ebbe nessun valore pratico, decide di suicidarsi come forza politica a vocazione maggioritaria, cioè di partito che, come si dice, tende ad avere la maggioranza per governare, per diventare invece un forte partito, come tanti ce ne sono, di radicamento a destra, ma sostanzialmente inutile dal punto di vista, diciamo, di un governo prossimo venturo, fatto con delle elezioni naturalmente, no? Cioè di fare un bel partito del 20-25% che non conterà nulla. Questo è quello, e avrà un equilibrio istituzionale, diciamo, totalmente spostato in senso stile, questo sarà il prodotto. Ma sbaglio o tutto questo non aiuta molto chi aspetta grandi svolte riformiste da Renzi nel PD? A me turba, io come ti ho ritwittato, diciamo così, su una cosa, a me turba molto il silenzio di sia di Enrico Letta che di Matteo Renzi sulla vicenda dell'MP, del Monte dei Paschi di Siena. Appunto. E mi domando perché, visto che Renzi ne aveva fatto una bandiera, no? Contro, già. Ricorderete Siena, che cosa era stata così. Ora, sai, vocazione riformista, io non lo so che cosa voglia dire, però io so che mentre si parla di privatizzazioni inesistenti, finte privatizzazioni, cassa depositi e prestiti, questo io non voglio entrare in un campo economico che non ho nessuna competenza, ma insomma mi pare di capire, io però sento che in questo momento si sta parlando di nazionalizzazione dell'Ilva, esatto. Si sta parlando di nazionalizzazione del Monte dei Paschi di Siena perché quelli non sono capaci di ripagare i debiti, i contratti, i famosi Monti Bond, Monti Bond, eccetera. Poi si parla di, e poi addirittura le poste che entrano in Alitalia. Io quando ho visto che c'è una compagnia araba, io ho detto speriamo, per fortuna, speriamo che ci compri, cioè oramai non resta che sperare che da qualche parte qualcuno si prenda questa Alitalia e ne faccia anziché questo carrozzone che verrà di nuovo rinnovato. Quindi la RAI, privatizzazione della RAI, non se ne parla più, non si capisce che tipo di patrimonio pubblico possa essere seriamente dismesso. Esatto, quindi tu stai dicendo hai voglia al riformismo qua, insomma, mi pare complicato. Riformismo di che? Riformismo, ma se non sei ancora, non si riesce a trovare, oggi di nuovo leggo sui giornali, ha bisogno di 500 milioni, stanno cercando 500 milioni, ma come 500 milioni? Qui non si abbatte, tra l'altro vorrei sapere una cosa, lo chiedo a te che sei uno che segue molto più attento a queste cose, ma la promessa di ripagare i debiti che la pubblica amministrazione ha nei confronti delle imprese, è una promessa che è stata mantenuta o no? È una promessa che all'inizio di dicembre è stata mantenuta in totale per 13 miliardi su 17 messi a disposizione, che naturalmente non sappiamo, ma intorno ai 100 miliardi almeno. Rispetto ai 100 miliardi, come fa a ripartire l'economia? Esatto. Quando? Primo, come fai a lanciare una seria, diciamo, politica di contenimento dell'evasione fiscale quando il primo, diciamo, a non sapere onorare i propri debiti come debbe proprio d'onore, neanche a conoscerne la consistenza, è lo Stato. Allora, secondo, è lo Stato solo che non paga. Aspettiamoci, abbiamo due ascoltatori, aspetta, ti interrompo. Alessandra da Milano, prego Alessandra. Pronto? Eccoci, prego Alessandra. Sì, volevo dire che anzitutto io avevo votato Renzi, l'ho votato quest'anno e l'avevo votato l'anno scorso con molta difficoltà, nonostante fossi iscritta al partito, e devo dire che subito mi sono resa conto che c'era un clima di grande esultazione in senso restauratore, sì. Con Cei che aveva giubilato, eccetera, tutta la destra, eccetera, sulla maturità degli italiani, non vogliono cambiare nulla, eccetera, e si capì benissimo tutti, devo purtroppo non sono d'accordo con Pierluigi Battista, che sarebbero state le bocce ferme se non per la questione di Grillo. Infatti io, come tantissimi, lasciai di votare il PD e votai Grillo, e ha votato Grillo alle scorse elezioni. Comunque adesso lei non ha smarrito la fiducia nel fatto che Renzi possa darla alla spada riformista, mi pare di capire, vero Alessandra? Tale, proprio in senso democratico, in senso liberale, in senso serio, di non avere le solite... Va bene, chiarissimo quello che ha detto, sentiamo Massimo da Lucca. Massimo, prego. Buongiorno, salve. Buongiorno. Giannino. Dica. Un velocissimo inciso, sì. Io sono un dipendente, guadagno circa 60 euro al giorno e quest'anno, quando la sentivo, pur avendo già deciso di non votarla, ho deciso di dare un'erogazione liberale al suo partito di 50 euro, quindi sì. Sono andato a lavorare un giorno per lei, sì. e accolgo con favore le sue scuse. Detto questo, io non so se può esistere un Giannino, un Massimo o un PG Battista che chiamato a teste di fronte a un tribunale della Repubblica può dire, mandare una letterina con scritto scusate ma io non ho nulla da dirvi, non vengo, è bene che... E in che senso? Perché? Che... Perché non ho nulla da dirvi, non vengo? Cosa vuol dire? Beh, il Presidente della Repubblica ha fatto questo, ha mandato la letterina, ha detto guardate è inutile che io venga perché non ho nulla da dirvi e poi ha cercato... Ah, di... lei sta parlando della faccenda della Procura di Palermo. No, questo lo capisco, di questo ci siamo occupati altre volte, sa anche su quello che io ho un'opinione per la quale secondo me il Quirinale non avrebbe dovuto fare così. Pierluigi, un po' di ottimismo, dai, alla fine, in pochi secondi. No, un po' di ottimismo, naturalmente la ragione è l'ascoltatrice, cioè probabilmente quello, io quando lei dice non è d'accordo con me quando dicevo delle previsioni, le previsioni erano sulla base della vittoria di Bersani, è chiaro che se avesse vinto Renzi alle elezioni così il Partito Democratico avrebbe... Ma non è avvenuto, grazie a Pierluigi Battista, buon anno a tutti, ci sentiamo il 2.